9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 23 di giugno. In questa giornata facciamo un approfondimento con un bel po' di numeri, insomma, chiedendoci se davvero conosciamo tutti i numeri a fianco di ciò che ci viene sempre ripetuto, di ciò che di positivo dallo Stato ai cittadini in cambio della pressione fiscale, che è il 44% del PIL, della spesa reale totale pubblica, che è il 52% del PIL, eccetera eccetera. Ma invece soffermiamoci su alcuni numeretti di quelli che forse probabilmente sono meno noti, perché conoscerli bene rende un pochino più idrofobi, per così dire. Oggi parliamo, chiamiamoli sprechi della politica, non vogliamo essere demagogici, io non sono di coloro che pensano che abolendo partiti, istituzioni si sta meglio. Il problema è però è che non si finisce mai di scoprire quanto la politica decida con metri difformi. Ecco, io li chiamo sprechi per questo. Quali sono i metri difformi? Ieri per esempio, tanto per cominciare, abbiamo appreso dal senatore Pietro Ichino del PD che ai tanti costi collegati al finanziamento della politica, al regime troppo generoso, qualunque sia il criterio con cui lo esaminate in termini comparati, troppo generoso, in cui nel nostro partito, malgrado nel nostro paese, malgrado un referendum votato dai cittadini, i partiti continuano attraverso i rimborsi elettorali a prendere i soldi dallo Stato, abbiamo appreso che c'è un'altra categoria che ci era ignota, di espressione della molteplice capacità della politica di attribuirsi delle risorse aggiuntive, e abbiamo appreso dell'esistenza, tra poco ce lo spiegherà il senatore Ichino stesso, di un gruppo di dipendenti di gruppi parlamentari in sovrannumero che continuano a percepire le loro remunerazioni anche se i gruppi ai quali lavoravano non ci sono più, e anche se i gruppi parlamentari attuali non li utilizzano, e per di più i partiti ci prendono anche dei soldi in più oltre ai soldi che vengono dati per mantenere in vita questi lavoratori. Colpa di questi lavoratori? No, però insomma è un regime un po' particolare, lo scopriremo tra poco. Poi andremo avanti scoprendo e chiedendoci, non solo ponendoci molti interrogativi che sono già noti sui costi della politica in eccesso, i costi delle sedi delle regioni, delle province, dei comuni, quanto spendono, quanto non spendono, se sia vero quello che per esempio dice oggi il quotidiano, il Fatto Quotidiano si è fatto il conto, oggi dice che ci sono 246 deputati e 104 senatori che non hanno maturato il diritto al vitalizio e per quasi tutti scatta a fine legislatura, e quindi dice attenzione, perché mica si va a votare nel 2012, si va a votare di sicuro nel 2013 per questa sola ragione. Ma nel prosieguo della puntata ci porremo anche il problema di capire non solo quindi dei soldi che la politica prende per sé o dei soldi che la politica prende per coloro che indica ma che fanno parte del sistema della politica, tentiamo di occuparci anche di una questione che è fondamentale per capire se davvero ci sarà la riforma fiscale che ci viene promessa, per tentare di capire come farla meglio, perché la novità è che finalmente sono accessibili tantissimi dati che fino a ieri non conoscevamo su decine e decine, anzi centinaia di gruppi sotto nicchie che sono i beneficiari di trattamenti agevolati attraverso deduzioni e detrazioni fiscali nel nostro paese, ai quali la politica ha deciso nel tempo, in maniera confusa, stratificata, di dire di sì, e loro sono coloro che in realtà portano a casa dei dividendi netti positivi da un sistema fiscale che poi invece agli altri è in generale onerosissimo e che in cambio ci dà un paese dove costi della politica ed efficienza dei servizi pubblici, insomma, sono quelli che sono rispetto agli altri paesi. Quindi metteremo a fuoco un bel po' di nicchie di favoriti nel tempo della politica, spiegandovi insieme al collega Renzo Rosati di Panorama, perché Panorama in edicola oggi pomeriggio e domani mattina è proprio dedicato a questo, c'è un bellissimo servizio nel quale Renzo Rosati si è posto il problema, centinaia di pagine alla mano, dei quattro rapporti preventivi in vista della riforma fiscale preparati dagli quattro esperti indicati dal ministro Tremonti, di spiegarvi, numeri alla mano e conti alla mano, chi sono almeno alcuni di questi beneficiari che nelle pieghe di questo sistema alla fine portano a casa un trattamento di beneficio rispetto al fatto che nella media noi paghiamo e basta. Ma iniziamo innanzitutto presentando i due ospiti che vi ho sommariamente detto. Abbiamo con noi il senatore Pietro Ichino, che ringrazio, buongiorno. Buongiorno. E Renzo Rosati di Panorama, ringrazio anche lui, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, senatore Ichino, ci spiega un pochino questa questa categoria particolare, lo dico con rispetto nei loro confronti, che sono i dipendenti dei gruppi in sovrannumero? Dunque, la cosa è così. Nel 93 è stata emanata dalla Presidenza del Senato una delibera che diceva in sostanza questo: ci sono alcuni gruppi della precedente legislatura che sono spariti, per esempio il Partito Socialista non era più rappresentato in Parlamento e che avevano dei dipendenti, che lo staff del gruppo, dipendenti di diritto privato, perché si considerano come dipendenti del partito. Il gruppo è una emanazione del partito, no, quindi non sono dipendenti del Senato. Il gruppo riceve dal Senato un contributo commisurato al numero dei senatori per retribuire i propri dipendenti, per sostenere le spese di gestione del gruppo. Scomparso il gruppo, restano questi dipendenti e la delibera del Presidente del Senato invita tutti gli altri gruppi, quelli ancora attivi, a assorbire il personale del gruppo disciolto, del gruppo non più esistente, e dice: chi è disposto a assorbire uno di questi dipendenti riceverà dal Senato un contributo a copertura di quello stipendio. Allora gli altri gruppi pescano, diciamo così, nel gruppo dei dipendenti in questione, ma siccome è difficile che un partito voglia avere in casa propria delle persone di altro orientamento politico, e molti di questi restano fuori, cioè non vengono assorbiti dagli altri gruppi. Allora la delibera dice: tutti quelli che non saranno stati assorbiti da nessun gruppo esistente vengono assegnati di diritto al gruppo misto. In questo modo il gruppo misto, che è un gruppo relativamente piccolo e che avrebbe una sua dotazione limitata in corrispondenza al basso numero di senatori che vi aderiscono, invece si trova ad avere un organico molto ingigantito di persone per le quali non ha neanche un posto dove farle lavorare, non c'è neanche un tavolo, un ufficio dove metterle. Allora alcuni di questi vengono in qualche modo il gruppo misto li dirotta mettendoli al servizio di qualche senatore o qualche ufficio dove possono essere utilmente impiegati, ma gran parte semplicemente non vengono utilizzati, e questa è la cosa veramente impressionante. Si pagano stipendi per anni a persone che non mettono più piede in Senato. Ora, questa cosa, quando l'ho scoperta per caso in Senato, l'ho trovata veramente incredibile, anche perché tra l'altro i partiti, come anche i sindacati, non sono vincolati all'articolo 18 dello statuto per i licenziamenti, perché sono organizzazioni di tendenza. Quindi per i partiti, come per i sindacati, è anche più facile licenziare il dipendente per soppressione del posto. La cosa migliore, senatore, è continuare dal punto di vista del partito e dei suoi dipendenti a farli pagare dal bilancio del Senato a vita senza più farli lavorare. Ecco, questa è la cosa un po' incredibile, cioè che invece di chiedere e ottenere ritenere che ciascun partito riassorba i propri o, se non li riassorbe, provveda a risolvere il rapporto, come è tenuta a fare qualsiasi azienda che chiude una filiale e che deve far fronte alla chiusura con i provvedimenti del caso. Invece in questo caso il Senato si fa carico di garantire una continuità, ma non la continuità per un periodo limitato, no, una continuità senza limite. Qui ci sono persone che sono state anche per 10 anni senza mettere piede in Senato, e questo francamente mi pare un po' eccessivo. Lei ha, oltre al fatto che naturalmente un meccanismo del tutto analogo avviene alla Camera dei Deputati, ha anche poi documentato come, oltre al pagamento per anni protratti di questi pendenti dei partiti a carico del bilancio del Parlamento e del Senato, i partiti ci lucrino sopra rispetto a quanto davvero poi danno e costi il rapporto al lordo di questi dipendenti. Anche questo risvolto. Per i dati e i dettagli devo rinviare al mio sito, dove ho messo online l'intervento che ho svolto ieri al Senato su questi punti. Il Senato mette a disposizione, e anche questo è un dato sorprendente ed eccessivo, assolutamente, a mio avviso assolutamente ingiustificabile, il Senato non rimborsa al gruppo che assorbe il dipendente del gruppo disciolto, non gli rimborsa il costo effettivo dello stipendio più i contributi, ma fa un rimborso a forfait, che va a seconda dell'anzianità e di qualche altro parametro, va da un minimo di 90.000 a un massimo di 150.000 euro l'anno, che significa mediamente un 120.000 euro l'anno, cioè 10.000 euro al mese per ciascuno di questi. Ora, ci sono effettivamente alcuni di questi dipendenti dei partiti che avevano stipendi altissimi, perché erano giornalisti, il contratto dei giornalisti è un contratto ricchissimo, naturalmente parlo dei giornalisti dipendenti regolari, poi sappiamo che oggi non se ne assumono più, ma questi invece godevano di quel privilegio, e quindi lì il rimborso del Senato è ampiamente assorbito dalla spesa per mantenere per lo stipendio e i contributi. Ma in molti casi invece il dipendente costa 50, 40, 60 mila euro l'anno, e tutto il resto resta al gruppo a cui il dipendente è stato assegnato. In questo modo si determina una sorta di finanziamento surrettizio al partito, che non figura da nessuna parte, ma che c'è. Ora, io ho, nella mia interrogazione ho sottolineato una cosa. Noi 3 anni fa, nel dicembre 2008, abbiamo, tra l'altro su un mio emendamento, abbiamo inserito nella legge Brunetta il principio della trasparenza totale, che impone a tutte le amministrazioni rendere accessibile qualsiasi dato e qualsiasi documento inerente all'amministrazione, salvo quelli che siano qualificati come riservati, ma che bisogna motivare perché riservati, altrimenti la regola è quella che il Freedom of Information Act americano-britannico, certo, chiama la full disclosure, trasparenza totale. Se il Senato applicasse a se stesso, alla propria amministrazione, questa stessa regola, probabilmente casi come questi non sarebbero potuti accadere. E io ho voluto col mio intervento in aula riportare tutti i dati fino al centesimo, proprio per realizzare, diciamo, un piccolo scampolo di full disclosure, perché l'opinione pubblica conosca queste cose, perché se si applicasse in modo generalizzato il principio della trasparenza totale, queste cose non potrebbero accadere. Io devo dire grazie a nome di voi tutti, ma io lo dico innanzitutto a nome personale al senatore Pietro Ichino, che oltre a occuparsi, esponendosi parecchio, perché è un giuslavorista coerente ai suoi principi, lo fa nella sua attività di politico nel PD, lo fa nella sua attività pubblica, ma oltre che per questo, lunedì scorso ancora a Genova al convegno sul mercato del lavoro del PD ha difeso le sue posizioni, le sue battaglie. Per chi ci segue da anni, sapete quanto vicini siamo all'impostazione del contratto unico come l'ha disegnato nelle sue proposte di legge, e mi auguro tra l'altro che questi stessi principi domani siano tenuti presenti da sindacati e imprese, che hanno un round importante per vedere come fare intese aziendali che contemperino anche la piena esigibilità e il nuova sfera di rappresentanza e di diritti dei sindacati. Ma oltre a tutto questo, ci ricorda come uno, il parlamentare, debba innanzitutto svolgere questo mestiere di dare trasparenza, dare pubblicità, interrogarsi sullo scandalo dei numeri che stanno occultati nelle pieghe dei bilanci del Parlamento e dei cinque grandi soggetti istituzionali che sono sottratti poi anche al controllo della Corte dei Conti, perché di questo si tratta. Allora, oltre al ringraziamento a Pietro Ichino, leggetevi oggi per esempio l'articolo che c'è su Repubblica, pagina 9, sulle spese della Camera. Ichino, nel suo intervento a cui faceva riferimento, lo trovate sul suo sito, parlava specificamente del Senato, ma ancora una volta alla Camera noi ci troviamo, ancora una volta grazie al fatto che poi la piena pubblicità non c'è su queste cose, ci troviamo di fronte a l'ennesimo aumento delle spese per affitti, che anche nel 2011 aumentano, arrivano a 54 milioni di affitti per gli uffici dei parlamentari, all'aumento vertiginoso del numero di parlamentari che prendono la pensione, che sono 1813 ovviamente, e che costano 138 milioni di vitalizi solo loro, tra 96 milioni di diretti e 24 milioni di reversibilità. Aumentano le spese per il personale, che arrivano per la sola Camera dei Deputati a 210 milioni di euro l'anno, aumentano le spese di ristorazione che aumentano a 5 milioni e 500 mila. E potrà sembrare demagogico, ma io sono convinto invece che questi numeri dovrebbero essere in testa all'attività di ogni parlamentare, perché io non credo che siano i partiti credo poco che si possano occupare di questi. Partiti hanno sempre l'esigenza di reperire nuove risorse. Il fatto che il capo del centrodestra sia Berlusconi porta automaticamente tutti gli altri da anni a dire: beh, lui è un magnata, ci mette i suoi, noi abbiamo bisogno ancora di più risorse pubbliche. Questa è stata la gara della Seconda Repubblica, l'aggiramento totale di quel referendum e il abbarbicarsi a ogni possibilità di avere nuove risorse. Quindi capite bene che a me l'idea che di questi 200 milioni che ci costano, 204 milioni che ci costano il totale delle pensioni degli ex parlamentari, 219 milioni se poi prendiamo la cifra più ampia delle indennità e paragoniamo i vitalizi dei parlamentari alle pensioni che instancabilmente, io per primo dico che dobbiamo adeguare, aumentare la vita di lavoro per tutti i pensionati, dobbiamo interrogarci o no? È demagogico farlo? Io credo di no. Porsi il problema dei 4.400 euro che nel 2009 al Senato sono andati per acquistare 50 asciugamani deluxe al modico prezzo di 88 euro ciascuno, quando su eBay ciascuno di loro si trova a meno di 5 euro, è demagogia? Beh, io credo di no, francamente. Il 1.100% che è l'aumento dei contributi elettorali ai partiti italiani tra il 1999 e il 2008, il 1.100%, è demagogia riflettere su questa cifra? Io credo di no, perché non lo sto facendo né urlando né colpando nessuno. Credo però che il contribuente italiano avrebbe diritto ad assumere forme di civile protesta nel rispetto della legge, in cui tutti questi numeri impilati in un bel modulino iniziassero a essere da qualche parte rigirati alle agenzie delle entrate in cambio poi di quello che diamo, o no? E questo è, allora, trovare parlamentari che facciano questo mestiere di aiutare la stampa nel far riflettere su questi numeri, secondo me è il sale della democrazia italiana. E il sale della democrazia italiana invece, che l'aumento dell'utilizzo degli aerei di Stato tra il 2008 e il 2009 sia del 154%? No, non è il sale della democrazia, perché vuol dire che anche lì ciò che ritualmente ogni governo annuncia, ricordate il grande scandalo era che si diceva da parte del centrodestra che il governo Prodi aveva portato, ricordate i casi di Mastella e così via, ho capito, col governo di centrodestra l'aumento c'è stato altrettanto vertiginosamente. E naturalmente non è solo la politica a livello nazionale a cui è più facile fare le bucce, ci sono i 300.000 consulenti messi in campo come esercito dagli enti locali, che ne so, ci sono i 6.000 euro spesi da Lazio, Regione Lazio nel 2009 per la fornitura di caffè durante la riunione di giunta, dice vabbè ma non hanno diritto al caffè, sì, però il problema è che vai a vedere quanto costa, forse c'è bisogno di una fornitura standardizzata tipo Consip, anche per il caffè, sì anche per il caffè, bisogna risparmiare su tutto come fanno milioni di italiani che hanno un reddito disponibile che in questi anni si è avvalorato zero, come sappiamo le statistiche, sono il problema dei consumi bassi e della domanda stagnante nel nostro paese e che quindi dovrebbero imporre al settore pubblico a qualunque livello di avere comportamenti del tutto adeguati o no? Cioè, perché gli ex consiglieri regionali della Puglia hanno visto, a differenza degli italiani, nell'ultimo anno la pensione loro che è passata da 8.840 a 10.070 euro? E per quali ragioni? Cioè, di mezzo c'è un aumento che da solo vale tre volte la pensione minima, che viene corrisposta a milioni e milioni di italiani, da quanto abbiamo letto che 520 euro, questi se ne sono aumentati di tre volte in una sola botta in un anno, ammetterete che sarà legittimo chiedergli come mai, chi l'amministra, il centro-sinistra, come mai hanno deciso di fare questo, lo hanno fatto d'accordo con il centro-destra, sì, nella votazione era bipartisan, e allora però qualcuno mettesse i manifesti per strada anche in Puglia, oppure no? Allora, io come avete capito potrei andare molto avanti a lungo, tra l'altro trovate molti di questi numeri sull'apertura del Panorama di oggi, che insieme alla Repubblica che vi ho già citato, al Fatto Quotidiano che vi documenta il numero di parlamentari in attesa di maturare il vitalizio, al Corriere della Sera che oggi documenta quello che Pietro Ichino vi ha ripetuto a questi microfoni. Su questi quattro giornali, come vedete, sono bipartisan, c'è chi sia di qua che di là si occupa dei numeri che dovrebbero farvi ribollire il sangue e di cui bisognerebbe democraticamente, pacatamente, ma con grande testa dura, almeno con tanta testa dura quant'è quella di chi vi dice che siete tutti evasori, ricordare a coloro che ci chiedono di pagare quello che è giusto, cioè tantissimo, quello che non è giusto, perché è tantissimo, dico io, di tasse. E oltre a questo, appena finita la pubblicità con Renzo Rosati, vedremo che c'è anche però, c'è tantissimi, ci sono diverse centinaia di migliaia di italiani, non solo i politici, che con le regole disegnate dalla politica per accontentare lobby, nicchie, eccetera, eccetera, anche loro portano a casa qualcosa su cui finalmente è tempo di interrogarsi. È giusto che lo facciano? Sono sprechi della politica anche quelli, perché quelle sono le nicchie di rendita di chi estrae col consenso della politica ciò che nelle tasche della media degli italiani per principio generale non si può chiedere che vada. E allora perché a loro sì e agli altri no? Allora, stiamo parlando di costi ma anche di sprechi della politica, non è solo la politica ad approfittarne, ma abbiamo cominciato ancora una volta quello col senatore Ichino. Ancora una battuta, senatore Ichino, sulla trasparenza. Volevo solo aggiungere che è stata introdotta una regola che prevede che anche ai singoli parlamentari si applichi la regola della trasparenza riguardo ai redditi e patrimoni, e però è stata posta come facoltativa. Hanno aderito a questa iniziativa e quindi hanno messo online sul sito del Senato e della Camera un numero veramente modestissimo di parlamentari, e anche su questo mi sembra che gli occhi dell'opinione pubblica dovrebbero appuntarsi. E poi aggiungo un'altra cosa: quel principio di trasparenza totale che è stato introdotto nella legge Brunetta ha visto sfilarsi, cioè sottrarsi a quel principio, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia. Non si capisce perché. Se il principio deve essere universale, come lo è il Freedom of Information Act negli paesi anglosassoni, in Svezia, perché da noi non ci si crede? Perché se non ci crede il vertice del governo, evidentemente c'è una svalutazione di questo principio, che invece secondo me sarebbe la panacea, esatto, o perlomeno un contributo fondamentale per risolvere tanti problemi in Italia. Allora, io ringrazio senatore Ichino e chiedo a voi in ascolto: perché io devo sempre sentirmi dire, di fronte a un qualunque accertamento fiscale, lo sapete, c'è una partita IVA, pago quello che dichiaro sempre, c'è cioè una percentuale elevatissima, il mio reddito lordo supera il 60%, perché io mi devo sempre sentire dire che sono tenuto a dare addirittura all'accesso elettronico all'agenzia delle entrate o a qualunque mio conto, tanto non devo avere niente da nascondere, no? Questa è la risposta che mi date sempre voi quando io dico che si tratta di sistemi di esazione di accertamento preventivo e sintetico totalmente unilaterali, inaccettabili perché corrispondono a una totale asimmetria rispetto ai tempi e alle modalità con cui lo Stato mi paga quando io ho un credito da far valere nei suoi confronti. Ma voi dite che naturalmente Giannino sbaglia a scaldarsi perché Giannino è anomicamente tenuto a sottovalutare, perché non si fida dello Stato, e dite che è un liberista individualista, e dite: ma perché ci scaldi tanto? Perché vuol dire che hai qualcosa da nascondere. Allora, se vale per me, perché non deve valere, se non facoltativamente, per i parlamentari? Allora, voglio sapere che Stato è uno Stato in cui i rappresentanti che decidono di darsi vitalizi che aumentano in un solo anno di 3 botte la pensione minima, loro non ci sono tenuti, mentre io ci sono tenuto, o altrimenti tutto quello che guadagno vengono e se lo prendono. Questo è uno Stato che mi tratta come schiavi e che ve la fa sotto gli occhi, perché sono i rappresentanti, o meglio, non tutti, sono coloro tra i rappresentanti che decidono norme come la facoltatività o che decidono l'eccezione per la presidenza del Consiglio del Ministro dell'Economia, coloro che vi trasmettono tutti i giorni il messaggio: schiavo, paga e taci. È la mia opinione, mi dispiace che non bisogna essere leghisti per vederla così. Si può essere leghisti come di qualunque opinione politica, la differenza è avere una coscienza di che cosa sono le regole elementari di una democrazia e del falò di risorse in cui tutto questo si risolve. Ora andiamo a un'altra questione, ancora più fondamentale, enormemente più rilevante per l'ammontare delle cifre che investe, che è quella di cui parliamo con Renzo Rosati. Trovate, per se lo volete leggere, in apertura del Panorama un suo articolo in cui si fa il punto, lasciamolo dire direttamente a Renzo Rosati, di una cosa sulla quale si possono fare enormi risparmi, miliardi, e soprattutto reintrodurre elementi di elementare razionalità e di giustizia sociale, perché andando a vedere come funzionano le deduzioni e detrazioni fiscali nel nostro paese si scopre che ci sono un mucchio di persone che hanno portato a casa negli anni un pacco di quattrini, a differenza di altri che avrebbero almeno altrettanto titolo, o forse non avendone titolo in assoluto, e lì bisogna incidere. Però numeri alla mano. Renzo Rosati, di che si tratta? Ma si tratta di questo. Noi questa settimana siamo andati a scandagliare tra le 476 agevolazioni fiscali che per un importo di oltre 196 miliardi di euro costituiscono il nostro sistema tributario. È una bizzarria, perché 476 agevolazioni a fronte di una pressione fiscale che si avvia a raggiungere il 45%, quindi siamo ai livelli massimi dell'Unione Europea soltanto sulla persone fisiche, è una totale anomalia. All'interno di queste 476 agevolazioni fiscali, che sembrano appunto dettate non da un disegno complessivo per favorire un determinato tipo di sviluppo piuttosto che un altro, ma determinati gruppi di pressione oppure determinate situazioni stratificate nei decenni, ce ne sono alcune di davvero bizzarre e altre invece di davvero scandalose. Per riallacciarmi un attimo a quello che diceva il senatore Ichino, ci sono anche qua delle agevolazioni che riguardano i costi della politica, posso citarne rapidissimamente 4, e cioè ad esempio detrazioni per erogazioni a favore di partiti e movimenti non concorrono, o meglio riducono l'imponibile fiscale. Un'altra è questa: il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasioni di manifestazioni propagandistiche da partiti politici è esentato dall'IRES, l'imposta sulle società. E poi soprattutto questo qua, direi, che non concorrono a formare reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione a titolo di rimborso spese. Si tratta di oltre 170.000 parlamentari, consiglieri regionali, comunali, provinciali, circoscrizionali, nonché dei giudici della Corte Costituzionale. Ah, aspetta, esempio, un secondo, vai, ridico questo numero: oltre 170.000, sì, avete, esatto, capito bene che non contribuisce a formare il loro reddito sui montanti dell'aliquota, non so se vi è chiaro. No, E tra questi, ripeto, oltre ai destinatari di cariche elettive, ci sono anche i giudici della Corte Costituzionale. Questo è l'articolo 135 della Costituzione. Ma al di là di questo, è totalmente bizzarro il modo con cui si è venuto formando questo monte di 476 agevolazioni. Io parto dal basso e ne cito due, che sono che è possibile portare in detrazione o in deduzione fiscale i contributi erogati a due enti, che sono l'ospedale Galliero di Genova oppure la Fondazione della Biennale di Venezia. Nulla ovviamente fa dubitare che non si tratti di enti benefici e meritevoli, ma voglio ricordare che i destinatari di queste agevolazioni sono 51 nel caso dell'ospedale Galliero di Genova e 71 nel caso della Biennale di Venezia. Per istituire queste due agevolazioni si sono dovute fare due leggi, una nel 2001 e una nel 1999. Quindi non solo si è istituita una detrazione o una deduzione a favore di chi eroga contributi a queste due entità e non di altre, che ne so, i Gaslini o piuttosto che Brera a Milano, ma si è perso anche molto tempo in Parlamento. Tremonti adesso ha un obiettivo, quello di ridurre la quantità di agevolazioni, deduzioni, detrazioni, esenzioni e quant'altro per lasciare più soldi in tasca ai cittadini in maniera tale che decidano loro poi che cosa farne senza andare. Ed ha citato due, a modi slogan quasi, due esempi. Finestra e palestra, diciamo. Finestre e palestra, esatto. Non ha torto, perché le finestre sono tutelate da una silza di agevolazioni, diciamo così, no? Ci sono quelle per il risparmio energetico, 3 miliardi di euro per lo Stato, a cui se ne aggiungo io, 5 miliardi, come ha spiegato l'autorità garante dell'energia, sotto forma di sgravi per l'energia verde che poi vengono spalmati sulle bollette invece dell'energia normale. Ma poi ci sono anche le agevolazioni per la ristrutturazione ordinaria, straordinaria, per il restauro di palazzi storici, per il restauro di edifici agrari e via discorrendo. Quanto alle palestre, si tratta di questo, è una detrazione d'imposta, quindi si detrae direttamente dall'IRPEF l'iscrizione di ragazzi da 5 a 18 anni ad associazioni sportive, palestre e piscine. Anche qua, nel 2009 ne hanno usufruito 1,4 milioni di contribuenti, con un beneficio che a mio avviso non vale assolutamente la candela, 39 euro a testa. Allora, ma dico io, non vale la pena di eliminare queste norme qua, quantomeno le palestre, lasciare i 39 euro nelle tasche dei cittadini e stabilire loro dove devono mandare i loro figli per migliorare la loro prestanza fisica, la loro salute, eccetera, ma non solo loro, anche gli adulti e via discorrendo. Ci sono molte altre categorie che vengono beneficiate da questi sgravi, ne aggiungo tre. La prima è quella del cinema, che l'anno scorso ha protestato molto, eppure gode di almeno tre benefici rilevanti. Il primo è un credito d'imposta finalizzato allo sviluppo delle attività cinematografiche, poi segue un credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche e poi una detassazione degli utili reinvestiti nel settore cinematografico. E qui la questione è, se lo diamo al cinema, è perché il cinema protesta di più, impatta di più, io non sto dicendo leviamolo, ma se lo diamo al cinema come nella legislazione vigente, perché non lo diamo al teatro allo stesso modo? Qual è la risposta a questo, Renzo? Non esiste la risposta, almeno contenuta nelle leggi fiscali italiane, perché come dicevo è tutto casuale. Io sono d'accordo con te, il cinema ha un impatto mediatico largamente ridondante, giustamente ridondante, si fa i suoi interessi. Il problema è che poi lo Stato gli dia credito. Il problema è che però ci dimentichiamo poi e pensiamo sempre che il cinema italiano sia vessato, mentre poi se guardiamo l'ottica della legislazione vigente troviamo che rispetto ad altri che ha molto di meno ha invece di più. Poi dicevi ci sono altri due esempi che volevi fare. Gli altri due esempi che volevo fare sono quello delle organizzazioni non governative, delle ONLUS, è tutto il capitolo delle erogazioni liberali. Noi abbiamo, per quanto riguarda le detrazioni o le deduzioni o addirittura le esenzioni fiscali per chi destina una parte di soldi, diciamo così, in beneficenza, va bene? Almeno 20 voci. Allora, 20 voci tu capisci che sembrano fatte apposta per creare delle nicchie o dei guazzabudi fiscali. Allora, anche qui le ipotesi sono due: o tu dai direttamente un beneficio fiscale alle medesime organizzazioni non governative, ONLUS, enti di beneficenza e quant'altro, ma questo presuppone chiaramente a monte un censimento sulle medesime per vedere che cosa realmente fanno e soprattutto che cosa fanno di questi soldi che il fisco in qualche maniera dà loro in forma agevolata. Oppure devi tagliare o quantomeno razionalizzare drasticamente queste agevolazioni. L'altra categoria, e qui so di attirarmi e forse attirarti addosso varie proteste, è quella dei tassisti. Ecco, i tassisti che anche loro si lamentano sempre, peraltro sono una categoria molto utile, no? A tutti noi, dico, però hanno una quantità industriale, una circa decina di agevolazioni che riguardano l'attività di impresa, che riguardano le accise sul carburante, che riguardano detrazioni per l'avviamento della loro attività o addirittura per la chiusura della loro attività. Allora, anche qui uno si può dire perché i tassisti sì e i gelatai no, d'accordo? Esatto. Perché i tassisti a cui si aggiungono tra l'altro anche i conducenti di autonoleggio, perché loro sì e ad altri evidentemente hanno chi li ascolta con orecchie diverse in politica. Ma certamente. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e dopo, per testimoniare che appunto voglio far arrabbiare tutti, parlerò di qualche cosa a cui la stessa Confindustria non vorrebbe che dicessi, ma in realtà la diremo, perché la logica del Giannino Rompiscatole, dei Rosati Rompiscatole, dei colleghi del Fatto Rompiscatole, di tutti quelli che fanno questi numeri e tentano di trovare una logica in una dove la logica non c'è e c'è solo lo schiavo che paga, e beh, devono a quel punto fermarsi di fronte al conflitto di interesse, no, lo dichiarano e se nemicano anche il datore di lavoro pro tempore, perché io sono uno schiavo, quindi un lavoratore libero, padroni non ne voglio e c'ho solo chi mi prende per tempo, mi usa come una call girl e poi naturalmente quando ho rotto troppo è come è giusto, è il suo diritto, mi butta via. E torniamo in studio, perché non ci sono solo i tassisti, non c'è solo il cinema rispetto al teatro, non ci sono naturalmente i partiti politici che prendono per sé anche con le deduzioni e detrazioni, ciò che già abbondantemente hanno preso affondando nella greppia fino al gomito come abbiamo visto prima. Qui c'è anche un conto che riguarda le imprese e il lavoro, e siccome le imprese e il lavoro insieme sono i due motori della crescita e giustamente chiedono, e noi sempre ripetiamo con loro, che devono vedere un'operazione fiscale per far tornare il paese alla crescita che abbia un saldo positivo nei loro confronti, non sia parità di gettito, perché è impresa e lavoro insieme che devono essere tassati meno, e questa è la colossale anomalia di questo paese rispetto a quello di tutti gli altri ordinamenti, un paese in cui la sinistra si è inventata la tassa sul lavoro come l'IRAP, vabbè, ma detto questo, e la destra, perché non per essere equanimi, ha detto la levo e poi non la leva, quindi una bella gara, e con paese come questo ha anche un'enorme distorsione che riguarda proprio la detrazione e deduzione sul lavoro. Oh, guardate che sono 43 miliardi, ripeto, leggetevi sempre l'articolo di Rosati per approfondire con i numeri su Panorama, sono 43 miliardi di minori incassi allo Stato per il complesso di detrazioni e deduzioni sul lavoro, ed è un po' paradossale che da una parte lo Stato faccia così, dall'altra tenga poi i 34 miliardi che incassa con l'IRAP in cui viene tassato il lavoro. Capite che è un'architettura priva di qualunque logica, una roba in cui da una parte si piglia e da un'altra parte si leva. E poi soprattutto, perché le detrazioni e deduzioni che sono vigenti oggi favoriscono il lavoro dipendente rispetto a quello autonomo? Cos'è questo principio di favore per il lavoro dipendente? Perdonatemi, messa così sembra urticante, vero, per voi che state a casa, perché sembra che dice che come il lavoro dipendente è meno libero. No, il lavoro autonomo è più rischioso, scusate se ve lo ricordo. E poi spetta allo Stato stabilire che la detrazione e deduzione deve favorire il lavoro dipendente piuttosto che l'autonomo. E spetta allo Stato fare questo, malgrado siamo il paese in cui, e grazie al cielo, io difendo questa come un'espressione di libertà, siamo il paese con la maggior percentuale di lavoratori autonomi sul totale degli attivi. Ecco, perché bisogna accettare cose simili? Allora, l'informazione ha appena cominciato a dissodare questa enorme congerie di dati che sono gli effetti delle deduzioni e detrazioni fiscali concessi selettivamente, discrezionalmente dalla politica a lobby e a gruppi di pressione nei decenni, che vanno disboscati. È così che si possono reperire, datemi retta, decine di miliardi di euro di minor saldo negativo per lo Stato, da destinare a una riforma fiscale che tassi molto meno il lavoro e l'impresa. Giannino ministro e Renzo Rosati al ministero con i numeri così saprebbero dirvi come fare. Naturalmente non spetta a noi che non facciamo politica, ma non è vero che non si può fare, non è vero che dovete accettare che i partiti continuino a beccarsi le cose di cui vi ha parlato Pietro Chino. Svegliatevi e non fate gli schiavi, svegliate e protestate. Ecco, questo è il mio commento finale. Oggi non ho potuto mandare né nessuno dei tanti messaggi, nessuna delle tante telefonate, perché ci siamo un pochino accalorati. Ho solo da chiedervi, ancora oggi, lo farò fino a domani, di continuare nella campagna a favore dell'associazione Matti per la Vela. Andate a vedere sul sito di mattiperlavela.org questa campagna che io considero straordinaria, di mettere su barche a vela dei ragazzi che sono nel circuito di recupero sociale perché hanno condizioni di disagio e possono essere recuperati, sì, attraverso il ponte di una barca a vela da pulire, attraverso la vela da issare, attraverso capire come si tiene la rotta, come si guardano le stelle, come si lavora insieme per se stessi, la propria dignità e per la responsabilità insieme agli altri. Cosa si può fare? Fino al 24 giugno, quindi fino a domani, doniamo 2 euro, mandate un sms o chiamate da rete fissa, il numero è 45502. Potete farlo da tutti i cellulari, qualunque sia il gestore o la rete fissa. Mandate questo sms, ripeto il numero 45502, www.mattiperlavela.org. Oggi, per chi sta a Milano, tra l'altro c'è in Triennale oggi pomeriggio una specie di rendiconto di questa campagna. Rendiamoci conto, i ragazzi non è dietro le sbarre che li recuperiamo su un ponte che balla, perché stando su quel ponte con piede fermo si impara a essere più responsabili di sé e degli altri. Questa è una cosa fondamentale. Viva il mare, viva Matti per la Vela, abbasso lo Stato ladro! A domani, Linea Generale Radio.